Mr. Oblio and the Bernarda in the house. Rai Samanna. Soldi non ne ho, dove ti porto? Soldi non ne ho, dove ti porto? Soldi non ne ho, dove ti porto? Dove ti porto? Dove ti porto? Entro nel club, tutto sfatto, col mio vestito, pacco pacco, sudo in grasso e collasso. Mi trascino al banco, vedi Nando. Chiedo alla barista, bicchiere di ghiaccio, bicchiere di ghiaccio, bicchiere di ghiaccio. Ma non mi vuole dare il mio bicchiere di ghiaccio. Se non ti piaccio, io reggisero ti sbraccio. Sono ridotto, uno straccio, su MTV non ci passo. Io sono un capotreno, di multo scemo, di multo scemo. Entro, esco, dalla disco, entro, esco, non è pasto, non esco. Ho perso la fede per quattro fighe, ti giuro amore mio, erano solo amiche. Robe magica, tasca carica, avanti la cosa verso la località. Brucia la città, le piazzativa, i pasti della bocca della giama cronica. Soldi non ne ho, dove ti porto? Soldi non ne ho, dove ti porto? Soldi non ne ho, dove ti porto? Dove ti porto? Dove ti porto? Entro nel cap pieno di fighette, un mio che insulta un paio di tette. Fratello è tutto sbronzo, più lui non connette. Che ci si può fare, gli parla già di manette. Cerco un'amica e mi ci avvicino. Muove il bacino su un ritmo latino. Sulle sue gambe mi dà paura, mentre le satteggia però la sua cintura. Se da signorina a chi pensa questa sera, infilo la mia mano sotto la sua canottiera. Lei che mi risponde con aria poco serena. Se la ragazza vede sta sicuro che ti mena. Cazzo, una lesbo che ci posso fare? È fenomenale, la cosa mi fa rapare. Rendo ubrio, usciamo dal locale. Viva la ganga, andiamoci a dogare. Robe magica, tasca carica, avanti la cosa verso la località. Brucia la città, nebbia sativa, i pasti della bocca della giama cronica. Soldi non ne ho, dove ti porto? Soldi non ne ho, dove ti porto? Soldi non ne ho, dove ti porto? Dove ti porto? Dove ti porto? Robe magica, tasca carica, avanti la cosa verso la località. Brucia la città, nebbia sativa, i pasti della bocca della giama cronica. Soldi non ne ho, dove ti porto? Soldi non ne ho, dove ti porto? Soldi non ne ho, dove ti porto, dove ti porto, dove ti porto? I nostri occhi sono sempre fatti, ci vedi scappi, ci vedi scappi. Siamo ubriaconi, siamo sempre fatti. Adesso aspetta, guardaci, tu fissaci gli occhi, siamo strafatti. Notte magica, tasca carica, avanti la cosa verso la località. Brucia la città, le tassativa, i pasti della bocca della giama cronica. Soldi non ne ho, dove ti porto? Soldi non ne ho, dove ti porto? Soldi non ne ho, dove ti porto? Dove ti porto? Dove ti porto? Notte magica, tasca carica, avanti la cosa verso la località. Brucia la città, le tassativa, i pasti della bocca della giama cronica. Soldi non ne ho, dove ti porto? Soldi non ne ho, dove ti porto? Soldi non ne ho, dove ti porto?